cartellone di Elisabetta Fiorito. Libiamo le lieti calici che la bellezza infiora, e la fuggevo la sinebria volontà. Libiam le dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quella calca E con questo inno all'amore iniziamo la puntata di oggi di Cartellone. Buongiorno, buongiorno, un'edizione storica, quella con Francesco Albanese nei panni di Alfredo Gemont e con Maria Callas nei panni di Violetta Valéry. Perché parliamo di Traviata? Perché la Traviata ha aperto mercoledì la nuova stagione del Teatro Regio di Torino, e poi perché c'è stato un po' di polemica questa settimana. Franco Zeffirelli, insomma, un regista un po' importante, un regista e scenografo, ha detto che l'opera è in crisi e che stanno uccidendo il melodramma. Colpa, dice Zeffirelli, che del nuovo a tutti i costi, che ha oltrepassato i limiti della tollerabilità. Insomma, un'accusa a dei registi irresponsabili, allestimenti osceni, perché Zeffirelli dice l'opera deve avere un allestimento classico. E noi vogliamo andare a Torino però per vedere che cosa succede. Buongiorno Gian Andrea Noseda, direttore d'orchestra. Eccoci qua, mi dica tutto. Allora, lei condivide questo allarme di Zeffirelli e soprattutto questa Traviata che ha aperto la nuova stagione del Teatro Regio di Torino? Che allestimento è? Un allestimento classico oppure invece un allestimento alternativo? È un allestimento bello, punto. non mi sembra di scendere, voglio dire, ogni parere è rispettabile, io rispetto il parere di un regista così importante come Franco Zeffirelli, mi sembra che sia un suo parere, insomma, non questo debba assurgere a livello di Vangelo, e quindi secondo me non è molto interessante dire se una produzione è tradizionale, classica oppure moderna. Bisogna vedere se la produzione, se l'opera ha un'idea. Ci possono essere degli allestimenti tradizionali senza nessuna idea e quindi sono brutti, ci possono essere degli allestimenti non tradizionali con una idea e quindi possono essere belli, quindi mi sembra abbastanza arido e sterile questo tipo di discorso, pur rispettando il parere di Franco Zeffirelli, che è uno dei nostri grandissimi registi. Gian Andrea Noseda, perché ha messo in scena la Traviata e oggi come accoglie il pubblico un'opera così struggente, così classica? Insomma, la gente vuole sentire ancora le note di Verdi? Ma penso assolutamente di sì, ne è segnale è il fatto che tutte le recite sono vendute, ne facciamo 12. Penso che la Traviata non sia il lato emotivo e struggente che porti poi la Traviata a essere l'opera che è, quanto la forte denuncia sociale che c'è dentro quest'opera e che è odierna oggi assolutamente. Cioè oggi la Traviata ha lo stesso peso e ha la stessa forza che aveva nel 1853 come atto di accusa nei confronti di una società perbenista che all'esterno deve apparire pulita, imparruccata, e invece all'interno può esserci tutto il marcio possibile. Verdi non ci sta e lo dice, per questo la Traviata ha la stessa freschezza. Elena Musiuk, mi scuso, Elena Musiuk, Violetta Valéry, insomma abbiamo sentito le note, poi sentiremo un pezzettino della Traviata della Callas. È sempre un ruolo abbastanza difficile quello di Violetta, che ricordiamo un pochino la trama per i radioascoltatori, è la donna perduta che però poi si innamora e per amore rinuncia un po' a tutto. Sì, Violetta Valéry è un ruolo che è amato di tutte le cantante, tutti vogliono cantare questo ruolo. È un ruolo molto, molto complesso, non solo scenicamente, ma musicalmente. È molto interessante, è molto impegnativo e a me ha interessato. Io sono sempre interessata di questi ruoli impegnativi. È un ruolo che lo canto con tantissimo piacere e mi dà moltissime soddisfazioni. E sono molto felice quando le emozioni che io le do cantando arrivano al pubblico e il pubblico è commosso. Qual è l'area che preferisce di più? Oh, è difficile perché prima aria è molto di virtuosismo. E la seconda è più intima, sono due cose diverse, tutte e due mi piacciono moltissimo. Sempre libera, non so, qual è l'area che le piace di più? Sempre libera, magari, quella lì in cui si riconosce Sì, magari è una una. cantante di opera. Sì, mi piace moltissimo, ma mi piace anche Addio dal passato. È un'altra cosa, sono due aree molto, molto diverse. Con tutte e due ho tante soddisfazioni. Francesco Meli, Alfredo Germont. Allora, la stessa domanda dei miei bollenti spiriti, qual è l'area? Croce e Beh, delizia. c'è poca scelta che Alfredo ha un'aria solamente, però forse sì, il cantabile del primo atto con Croce Delizia forse è ancora più interessante dei miei bollenti spiriti. Ma oggi come oggi un uomo canterebbe una donna dei miei bollenti spiriti? Lei l'ha mai cantato mentalmente a una sua innamorata? Beh, più che cantare innamorata bisognerebbe pensarlo per sé, perché Alfredo è una cosa che dice a se stesso. Però io penso di sì, nel senso che Alfredo, nell'area dei bollenti spiriti, pensa che finalmente ha trovato quello che cercava, forse che tutti gli uomini cercano, che è la donna della vita, il grande amore e un appagamento dei sensi. E qual è il momento più struggente? Il momento più struggente per Alfredo penso sia la fine, l'ultimo atto, quando ormai Violetta, in fin di vita, riceve la visita appunto di Alfredo e cantano quel meraviglioso duetto che è Parigi o Cara, fino poi alla morte di Violetta. Però noi vogliamo ricordare proprio il momento clou di Alfredo Germont, diciamo, in questa edizione molto antica che noi abbiamo trovato con Francesco Albanese. Quindi ci permetta, Francesco Meli, sicuramente è un modo di cantare che è cambiato negli anni. No, beh, un grandissimo tenore del passato albanese. E allora sentiamo questa traviata ricordando invece che Francesco Meli, Alfredo Germont, Elena Miuschuc, spero di averlo pronunciato bene, e Gianandrea Noseda, invece direttore d'orchestra, hanno messo in scena questa bellissima traviata che apre la stagione del Teatro Regio di Torino e che andrà avanti fino a quando, Noseda? Fino al 28. Fino al 28. Allora, tanta buona musica, tanto Verdi e poi ascoltiamoli questi bollenti spiriti. Dai miei bollenti spiriti, il giovanile you. tua sincera. Io via quasi, Cartellone. E torniamo, anzi rimaniamo a Torino, al Turin Photo Festival, ex manifattura tabacchi, Corso Reggio Parco, Torino appunto. Da giovedì si è aperto il Turin Photo Festival. Chiediamo allora a Mauro Villone, l'organizzatore, che cos'è questo Torino Photo Festival. Buongiorno, sì, Mauro Villone, organizzatore, insieme a Lidia Urani e a molti altri amici. Il Turin Photo Festival è un'iniziativa abbastanza innovativa perché si tratta di una grande kermesse, un insieme di location. La principale sono appunto le manifatture tabacchi, dove in questa occasione circa 60 fotografi si incontrano, e fotografi emergenti ma anche molto affermati si incontrano e insieme realizzano questa cosa, si allestiscono le loro mostre, si organizzano loro, sono stati selezionati da noi, ma loro stessi si organizzano per montaggi e smontaggi, naturalmente coordinati da noi. Quindi vedo che siete presenti alle manifatture tabacchi fino al 22, sì. Però poi da oggi parte un'altra iniziativa? Sì, manifatture tabacchi, Corso Reggio Parco 134 fino al 22, salvo proroghe, perché sembra che ieri, l'altro giorno, il giovedì, abbiamo inaugurato e è stato un grande successo. Da oggi inaugurano altre tre location e poi lunedì ci sono altre iniziative, martedì, mercoledì, giovedì altre inaugurazioni sparse per la città, che si possono trovare informazioni sul nostro sito www.unaltrosguardo.com con date e orari. Ricordiamo allora che si è aperta giovedì ma si protrae fino al 22 il Turin Photo Festival, 60 fotografi, insomma moltissimi artisti all'ex manifattura tabacchi ma anche in tutta la città. Grazie a Mauro Villone. Grazie a voi. E adesso andiamo a Londra, dove nella mitica Queen Elizabeth Hall ha debuttato uno spettacolo di danza molto particolare, uno spettacolo di danza contemporanea. Ci racconta tutto la nostra corrispondente Michela Daghini. Buongiorno Michela. Buongiorno Betta, buongiorno a tutti voi ascoltatori. Sì, questo è l'ultimo lavoro del catalano Rafael Bonacela, grande nome dell'ultima generazione di autori attivi nel Regno Unito. Lui è un pluripremiato coreografo di fama mondiale e suo nome è davvero importante nella scena della danza contemporanea tra Europa e Australia, non solo per le coreografie che realizza per la sua compagnia e per altri prestigiosi ensemble, ma anche perché lui è davvero eclettico e frequenta ambiti molto diversi e disparati, quindi dai grandi teatri ai linguaggi contemporanei, quindi video, computer, multimedialità. Ha fatto anche cose nell'ambito pop, è stato chiamato a fare le coreografie per il tour mondiale di Kylie Minogue, per dire, è stato chiamato da Tina Turner, dai News, quindi insomma un personaggio che si muove agilmente nei diversi ambiti che frequenta. Questo spettacolo ha debuttato, è stato accolto bene da pubblico e critica, si chiama The Land of Yes and The Land of No, è un pezzo per sei danzatori che ha come punto di partenza l'esplorazione dei segni che ci circondano, i segni stradali in particolare, che in Inghilterra sono moltissimi, sono molti più che da noi, a volte sono anche molto curiosi. Lui li ha presi come spunto per il suo lavoro, come punto di partenza per esplorare le emozioni più profonde, le memorie, i ricordi, il vissuto che porta con sé sentimenti, quindi gioia, dolore, insomma tutto ciò che appartiene al vissuto di una persona, di un essere umano. E le musiche sono particolari? Le musiche sono molto particolari, lui ha stretto questo sodalizio felice e fortunato con Ezio Bosso, 37enne di Torino, virtuoso del contrabbasso, compositore, direttore d'orchestra, ha lavorato molto per il teatro e per il cinema, lui è diventato conosciuto al grande pubblico con le musiche di Io non ho paura di Gabriele Salvatores, un film che chi ha visto probabilmente ricorderà perché porta davvero emozioni intense, e lui viene annoverato nell'ambito dei compositori minimalisti, quindi fa questa musica un po' alla Philip Glass, potremmo citare come riferimento, e tra l'altro i suoi dischi sono proprio prodotti da Hector Castillo e D'Ambora, che sono quelli che hanno prodotto anche Philip Glass, e vengono prodotte presso il Looking Glass Studio di Philip Glass a New York, quindi è una nostra gloria nazionale, si è trasferito a Londra, qui lavora e ha scritto scritto, composto le musiche proprio per questo spettacolo. E soprattutto tu l'hai intervistato, ora sentiamo Michela Daghini contro o con Ezio Bosso. È stato un processo lungo e molto particolare, perché in realtà è iniziato osservando, guardando, discutendo, allo stesso tempo anche improvvisando insieme ai danzatori e provando a cercare in una maniera forse più normale, più normativa, nel senso di solito si fa così, si improvvisa insieme, si vede, si va in una direzione. Poi è successo qualcosa che ha cambiato completamente questo atteggiamento, che è stato che a un certo punto questo fare, queste specie di sedute comuni hanno iniziato a diventare anche un'espressione intima delle persone. Quindi ho cominciato ad avere delle relazioni, dei ricordi, a raccontare anche dei ricordi durante quello che succedeva. E da lì è cambiato completamente il processo, perché è diventato esplorare in qualche modo l'associazione che avevano loro, parlo dei danzatori, parlo di me, parlo di Rafael, noi, rispetto ai segnali che gli venivano dati. Quindi da lì è iniziato il vero processo di scrittura, se vogliamo dire, cioè è stato come un cercare, girarci intorno. Stavamo in questi studi di danza con centinaia di fotocopie, libri, di cartelli, di segnali, scritte di muri. E poi a un certo punto un'esperienza di una danzatrice è come se avesse cambiato completamente il punto di vista su che cosa dovevamo esplorare. Poteva essere una mappa, poteva essere, no, una visione puramente grafica di quello che succedeva, invece si è entrati dentro esattamente la reazione emotiva rispetto a un cartello stradale. Allora da lì ho chiesto ai danzatori, gli ho dato dei cartelli, gli ho chiesto di scrivermi le loro impressioni, i loro ricordi rispetto a quel segno, a quella grafia, a quel colore, a quel, anche quel significato. In inglese è molto più significativo in qualche modo, no? Come lingua, quindi, che ne so, merge vuol dire molto di più che soltanto una strada che si stringe. Merge più ricongiungersi, split è anche un'altra evidenza, split è la parola che si usa per separarsi anche tra fidanzati, no? We split. E quindi da lì è iniziata questa ricerca che ha riguardato un po' tutti, in me in modo particolare, perché dovevo entrare nella fase di scrittura. Delle sedute di autocoscienza. Sì, sembravano erano delle cose che poi si possono sempre dire in due modi, uno molto ironico, nel senso che appunto tutti piagnevano, tutti. Sì, sì, siamo arrivati anche a momenti molto, molto intensi, e questo veniva poi applicato in qualche modo al ricordo, alla dinamica, al perché di una scelta di una certa direzione, anche alla stessa maturazione di quel primo impatto emotivo. E spesso erano storie intime dei danzatori, spesso erano storie intime nostre, così come sono state dei miei musicisti, perché poi ho fatto lo stesso lavoro, l'ho fatto sui miei musicisti prima di terminare la scrittura, e poi mi sono appoggiato a uno psicologo per capire meglio, quindi insomma, pesante. Dunque, avete lavorato sui sentimenti, sul vissuto, sulle esperienze, sulle emotività. Lei ha scritto la musica e contemporaneamente invece Rafael lavorava sulla coreografia. Abbiamo lavorato su delle idee principalmente, nel senso che poi la musica non è solo scritta in funzione della rispondenza emotiva che abbiamo avuto, ma è scritta anche in funzione della grafia di quello che vediamo. Quindi ho cercato di lavorare sotto un aspetto grafico all'interno della composizione e anche sotto un aspetto uditivo che rappresentasse, che ne so, una direzione. Quindi per rappresentare una direzione in musica, e la musica è bella per questo, che quando la scrivi ha anche una grafia che lo rappresenta. Quindi per esempio c'è un brano che è One Way, che è senso unico, e rappresentare il senso unico ho usato quindi delle progressioni che si chiamano arpeggi, sempre nello stesso ritmo, che tendevano ad andare sempre più veloci, solo verso l'acuto e con un piccolo ritorno. Quindi questa concezione anche grafica, quindi la difficoltà era quella, rappresentare tutte queste cose nello stesso momento. Nello stesso modo Rafael prendeva, negli stessi momenti, nelle stesse discussioni, cercava di prendere in qualche modo lo spazio nello stesso concetto. Poi, come in ogni lavoro, ovviamente la musica a un certo punto deve essere presente, perché un coreografo possa definire il proprio lavoro. Quindi si è aspettata il finale della scrittura, si è aspettato anche il finale della mia ricerca, quindi a un certo punto sono arrivato dicendo dobbiamo usare 11, prima erano 12, poi uno non ci piaceva tantissimo, 11 segni che fossero riconoscibili internazionalmente, perché tra parentesi i segnali stradali sono impressionanti. L'Inghilterra è uno dei paesi che ha al mondo più segnaletica in assoluto, cioè c'ha ogni tipo di cartello, compreso Watch Your Neighbor, ha dei cartelli veramente interessanti, e ce ne sono invece di internazionalmente riconoscibili, quindi che ne so, appunto Stop, sono più o meno uguali, magari cambia la grafica leggermente, ma i colori e i significati sono simili per tutti i paesi del mondo, sia che andiamo in Africa che andiamo in Estremo Oriente. Allora ho chiesto e ho proposto di lavorare soprattutto su cose che fossero comuni, come se fosse quasi una ricerca antropologica sull'essenza dell'essere umano. Da lì in poi, allora, la struttura dei brani è, in qualche modo, è anche condizionante poi del lavoro del coreografo, ovviamente. Allora ce lo ascoltiamo, su queste notte ci salutiamo, grazie al suo boss. E adesso andiamo a Milano per una rassegna un po' particolare al Teatro Arsenale. Fuori Festa 2009, 21 compagnie, dico 21, 7 spettacoli al giorno, 12 ore non stop di teatro emergente. Un modo per scoprire nuove compagnie, nuovi talenti. Marina Spreafico, direttrice del Teatro Arsenale, buongiorno. Insomma, buongiorno a voi. Un bel impegno. Ah beh, ho l'impegno sia organizzativamente che amministrativamente, in tutti i sensi è notevole, devo dire. È notevole. A che ora si inizia? Dunque, non si inizia alle 10 di mattina e si finisce alle 11 di sera. Quindi proprio le vere matinée. Sì, sì, sì. E le compagnie sono 7, si alternano. Ogni 2 ore ce n'è una nuova. Hanno degli obblighi, ovviamente. Lo spettacolo non deve durare più di 50 minuti e deve essere montabile e smontabile in mezz'ora. Quindi, insomma, degli obblighi abbastanza difficili da rispettare se magari ci sono 10 persone in palcoscenico, no? Beh, gli obblighi sono difficili, però noi li mettiamo nel bando. Quindi quando uno partecipa a un bando sa quali sono le condizioni, non è che... Però le compagnie non hanno problemi, si adattano molto bene a questi obblighi. Quanti di queste sono brevi pièce di vari personaggi e quanti invece magari per comodità fanno monologhi? Dunque, c'è di tutto. Direi che una percentuale abbastanza equidistribuita sono a una persona, due persone o anche addirittura 8-10 persone. Le compagnie vengono da Milano, dalla Lombardia e da tutta Italia e sono molto contente, da quel che abbiamo capito, di avere anche questa occasione di presentarsi in una città importante per il teatro come Milano. Allora, ricordiamo, Fuori Festa 2009 inizia questo weekend, anzi è già iniziato questa mattina alle 10, però sì, va avanti fino a domenica alle 11 di sera, giusto? Esatto, esatto. E 21 compagnie, 7 spettacoli al giorno. Quanto costa il biglietto? Tanto per 5 euro è il biglietto, e poi c'è una card per cui per 5 spettacoli si pagano 20 euro. E quindi praticamente una persona viene inglobata insieme alle sedie del Teatro Arsenale se fa la card. Va benissimo, ma noi siamo per assolutamente questa rassegna. Fuori Festa, 21 compagnie, 7 spettacoli al giorno, 12 ore non stop. Questo weekend al Teatro Arsenale per scoprire nuove compagnie emergenti. Grazie Marina. Grazie a voi. Cartellone. E adesso andiamo nelle Marche, più precisamente a Tolentino e in provincia di Macerata, dove vogliamo ridere, anzi sorridere, perché è in corso da luglio, ma resterà aperta fino al 25 ottobre, la 25esima edizione della Biennale dell'Umorismo nell'Arte. Massimo Marcoseri, assessore della cultura del Comune di Tolentino. Come sta andando? Benissimo. Abbiamo inaugurato la 25esima Biennale dell'Umorismo nell'Arte l'11 luglio, la 25esima, quindi sono circa 50 anni di questa grande tradizione che ha fatto della città di Tolentino un po' la civiltà del sorriso. L'abbiamo inaugurata il 25 luglio con una sorta di festival durato un paio di settimane, con degli spettacoli in piazza, negli spazi più suggestivi del centro storico della città. E abbiamo visto la partecipazione al festival di artisti come Arturo Brachetti, Riccardo Mannelli, Antonio Rezza, insomma una serie di spettacoli musicali, teatrali, tutti legati all'umorismo. All'umorismo, per così dire, un po' diverso dal ridere scontato. Questa è una grande tradizione che ha la città, nasce come museo e festival della caricatura, ma poi si evolve in Biennale dell'Umorismo nell'Arte, è un concorso internazionale, partecipano artisti da tutte le parti del mondo, in mostre grafiche, di sculture, che poi sfociano appunto in una mostra con dei vincitori, chiaramente. E la mostra appunto è stata inaugurata l'11 luglio, terminerà, ma poi non terminerà il 25 ottobre, perché avremo una proroga fino alla metà di novembre per la grande richiesta da parte del pubblico di visitare questa mostra. Quindi è un po' un settore unico nel suo genere a livello internazionale, di cui Tolentino va fiera, perché è un po' la chiave di volta, quella dell'umorismo, per penetrare situazioni anche a loro volta drammatiche, tragiche, che imbarazzerebbero un po' a penetrarla in maniera troppo seriosa. Ecco, ma quello che esponete sono più che altro disegni umoristici oppure tavole, che cosa, fumetti? Sì, sono, no, non sono né fumetti né opere legate alla cosiddetta satira. La caratteristica di questo concorso e di questa biennale sono delle vere e proprie opere d'arte che hanno come tema l'umorismo. In particolare quest'anno vi è un tema specifico, che i bambini ci guardano e ridono di noi, quindi uno sguardo dei bambini al mondo adulto in maniera anche a volte feroce. Quindi sì, la maggior parte sono tavole e sculture, ma sullo sfondo vi sono delle opere d'arte vere e proprie. Io vorrei ricordare che oltre alla direzione artistica di Maurizio Costanzo, la giuria era presieduta dal bravissimo Giorgio Furattini, da Riccardo Mannelli all'interno della giuria, da Maurizio Nichetti, da Erika Bonaccorti, da Achille Bonitoliva, da tanti esponenti del mondo dell'arte contemporanea e non, e da personaggi del mondo dello spettacolo che dell'umorismo fanno anche un loro stile di vita. Dove sono esposti tutti questi disegni e da che ora si possono visitare? Guardi, sono esposti a Palazzo San Gallo, nella piazza principale della città, Piazza della Libertà. Palazzo San Gallo è un bellissimo edificio, sede di mostre, è un po' il palazzo della cultura della città. Sono aperti dalle 8:30 la mattina alle 12:30 e il pomeriggio alle 15:30 alle 19:30. Quindi insomma tutto il giorno, lunedì chiuso però. Allora, per chi volesse andare a sorridere con l'arte, Tolentino fino al 25 ottobre, ma abbiamo sentito fino a metà novembre, 25esima Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte. E adesso parliamo, come sentite, di musica rom. Andiamo a Firenze, dove si inaugura domani il Festival della Creatività, con un concerto d'ingresso proprio dedicato alla musica rom. Siamo appunto in un ambiente particolare. Quest'anno il premio Strega Tiziano Scarpa si esibirà poi nella lettura del suo Stabat Mater sulle note delle quattro stagioni di Vivaldi. Buongiorno a Mario Ancilotti, direttore artistico di Suoni Riflessi. Buongiorno. Insomma, un programma piuttosto ricco che va dalla musica alla letteratura. Sì, il nostro obiettivo è proprio quello di unire le varie espressioni dell'uomo in riferimento sempre alla musica, ecco, per cui la letteratura è molto presente, ma sono presenti nei nostri festival anche altre espressioni, tipo le scienze, tipo il teatro, cose di questo genere, in modo da far capire che la musica e le altre espressioni hanno un'origine comune, che per cui per renderla più comprensibile, ecco. Infatti io leggo che praticamente iniziate questo weekend, ma andate avanti fino al 15 novembre, quindi insomma un bel calendario ricco di appuntamenti. E il Piccolo Principe di Saint-Exupéry lo accoppiate con Bizet e Ravel, Tiziano Scarpa con Le Quattro Stagioni, ricordiamo che Vivaldi è uno dei protagonisti, diciamo, di Stabat Mater, e poi Dante invece insieme alla musica di Bach. Dante insieme alla musica di Bach è abbastanza particolare. Insomma, sono tutti incontri domenicali che voi proponete alle 11 alla Sala Vanni, a parte domani che invece è alle 18:30, giusto? Sì, domani e poi al Teatrino Lorenese della Fortezza d'Abbasso per il Festival della Creatività, con cui abbiamo fatto una coproduzione, ecco. Avete scelto dei brani anche abbastanza particolari, perché per esempio di Dante che cosa fate? Un brano dal Paradiso e uno dal Purgatorio, Armonia delle sfere celesti, niente assolutamente inferno. No, perché lo scopo di quel concerto, appunto l'Armonia delle sfere celesti, è vedere come mostrare, come in alcuna musica, soprattutto nella musica dell'ultimo periodo di Bach, dove Bach andava cercando le estreme conseguenze di una ricerca particolare del contrappunto, per cui dell'armonizzazione e della conduzione più perfetta possibile delle parti, per cui armonia proprio dei mondi, armonia delle parti musicali come simbologia dei mondi, ecco che allora il confronto con ciò che Dante scrive proprio a proposito dell'armonia delle sfere celesti, e questo è un concerto che è stato diciamo così ispirato dall'anno, quest'anno il 2009, l'anno internazionale dell'astronomia, che è nato proprio dal fatto che Galileo, sono 400 anni che Galileo ha inventato il telescopio, per cui attraverso il telescopio si sono imparati e visti e indagati mondi e movimenti siderali particolari. Insomma, partiamo domani con Di città in città la musica Rom, poi domenica 25 ottobre Sala Vanni ore 11 Il Piccolo Principe, Tiziano Scarpa il 1 novembre, 8 novembre come abbiamo sentito Bach e Dante, Armonia delle sfere celesti, e domenica 15 si chiude con Poesia in cantata. Ricordiamo per chi è a Firenze, quindi suoni Riflessi, e chi invece è in visita può sempre agevolarsi di questa bellissima rassegna. Suoni Riflessi, 18 ottobre, 15 novembre. C'è molto lavoro? No, non molto. Solo 2000 clienti al giorno. Tu e la cucina. Alla cucina non importa niente di te, a te non importa niente della cucina. E adesso ci occupiamo brevemente di due spettacoli a Roma. Quello che sentite è The Kitchen, che è arrivato da Milano ed è in scena questo weekend al Teatro Italia di Via Bari, di Harold Wesker, regia di Massimo Chiesa, 31 giovani attori in scena con Camillo Milli, per questa commedia che raffigura quello che succede in una cucina di Londra negli anni 50. La storia che racconterò parla di incontri avvenuti molti anni fa, quando ero ancora iscritto a ingegneria, perché ci sono incontri che dimentichi e altri che ti cambiano la vita. Come quello, come l'incontro con la matematica sentimentale in scena al Teatro dell'Orologio con Pierpaolo Paladino, che è anche autore. Buongiorno Pierpaolo. Buongiorno. Allora, buongiorno. Un racconto teatrale sulla tua relazione con la matematica? Sì, non la mia personale, non è autobiografico, è una educazione sentimentale praticamente, di un ragazzo che studia la matematica perché è obbligato dal padre a studiare ingegneria in quanto figlio di ingegneri, e quindi ha un'avversione come molti per la matematica quando la incontrano nel modo sbagliato. Poi però conosce un docente che le fa scoprire tutto il lato artistico, passionale, perché il matematico puro è analogo al filosofo, e quindi a 20 anni scopre qualcosa per la quale potersi impegnare. Quindi scopre un po' i numeri immaginari. No, i numeri sono reali, scopre la passione della ricerca teatrale, scopre una visione che oltre che estetica è anche proprio conoscitiva, speculativa, scopre il gusto di potersi impegnare per qualcosa, un po' come lui è appassionato di musica, vorrebbe fare il chitarrista, ma scopre che un matematico è un po' allo stesso, diciamo, Sturm und Drang del compositore, che quando compone usa i numeri però per creare un'armonia. E questa armonia c'è anche nella matematica teorica, è un mondo che io non conoscevo affatto. Certo, era quello che ti dicevo sui numeri immaginari che sono sulle equazioni di secondo grado. Ok, allora, la matematica sentimentale, ricordiamo, al Teatro dell'Orologio, Sala Artaud, fino a domenica di e con Pierpaolo Paladino. In bocca al lupo, Pierpaolo. Riprendiamo anche le ultime 2 settimane di novembre, l'ho saputo ieri, lo voglio dire. Perfetto, allora, e inoltre le ultime 2 settimane di novembre, sempre al Teatro dell'Orologio. Ti verremo a vedere. Ciao! Vi ringrazio e vi aspetto tutti, grazie. Ciao ciao. Cartellone. Ma voi ve lo ricordate com'è stata la prima volta? Per ricordarcelo, noi andiamo in un teatro alternativo romano, La Cometa Off, più alternativo di così non si può, e parliamo con un regista, Gianluca Ramazzotti, che mette in scena 40.000 storie vere, sì, 4 attori per 40.000 storie vere, la prima volta. Raccontaci la tua, che noi vi raccontiamo la nostra. Gianluca, ma è così? Beh sì, è uno spettacolo molto particolare perché parla proprio delle prime volte della gente comune, cioè gente come noi che ha scritto ad un sito, queste storie sono diventate uno spettacolo, sono circa 40.000 storie che vengono raccontate in 90 minuti da 4 attori con un meccanismo che non sto a svelare, ma c'è un meccanismo per cui i 4 attori raccontano effettivamente 40.000 storie. Sono anche moltissime storie italiane prese dal sito lamiaprimavolta.it. Che è un sito che abbiamo fatto come i nostri, diciamo, fratelloni d'oltreoceano, da dove abbiamo preso il format, perché il format scritto da Ken Davenport è un format americano. Noi abbiamo preso le storie nel sito myfirsttime.com, sono storie che riguardano non solo gli americani, ma anche per esempio i russi, gli spagnoli, i messicani, i rumeni, e ci sono anche le storie italiane nel sito quello generale. Poi noi in particolare abbiamo fatto un sito italiano che si chiama lamiaprimavolta.it, dove stanno arrivando centinaia di storie, veramente anche in maniera impensabile, e la cosa bella, sai qual è? Che la gente si autocensura, quindi scrive le storie, ma le storie non sono mai volgari, hanno sempre quel qualcosa o di romantico o di divertente, ed è facile poi mettere insieme queste storie e farle diventare uno spettacolo di senso compiuto. Ma allora ci stai dicendo che tra i racconti degli italiani e i racconti, che ne so, degli svedesi, qualcosa c'è di differente? Ma guarda, sai cosa c'è di differente in realtà? Solamente che una storia è svedese piuttosto che in italiana, perché hanno un comune denominatore. Sì, ma i mobili IKEA oramai sono dappertutto. Sì, beh, certo, proprio dico, sono una bella cosa, questa è molto, che è molto carina, però dico, sicuramente c'è un comune denominatore, e cioè che le storie, quelle divertenti, un po' si assomigliano, oppure quelle tenere un po' si assomigliano, perché effettivamente la prima volta può essere divertente, dissacrante, tenera, anche violenta. Ci sono anche delle storie molto violente di persone che non la volevano la loro prima volta e che magari sono state costrette a farla. Ecco, noi abbiamo messo tutto questo in un unico spettacolo. Lo spettacolo è uno spettacolo dove si sorride, ci si diverte, si ride moltissimo, ma si pensa anche. Pensa che all'interno dello spettacolo ci sono delle schede in forma del tutto anonima. Il pubblico della serata compila le schede e scrive per esempio, non so, cosa diresti al tuo lui o alla tua lei del tempo, di quell'epoca, se fosse ancora qui oggi o se fosse davanti a te, e ne escono di tutti i colori, perché sapendo che sono anonime, quindi la gente si lascia andare in serata. La cosa divertente è che gli attori poi leggono le più divertenti o quelle più particolari nella sera stessa. Ma ancora di più ti dico una cosa ancora più forte, è che noi tutte le sere abbiamo un computer per cui tutte queste schede vengono messe dentro il cervellone, e quindi tu sera per sera hai esattamente il polso della serata in percentuali. Faccio un esempio: quante persone hanno usato il contraccettivo o il preservativo la prima volta? Ebbene, noi in serata abbiamo una percentuale reale, perché noi abbiamo preso le statistiche che il cervellone elabora di volta in volta con il pubblico che scrive in forma anonima, ripeto, del tutto anonima. Nessuno va lì a chiedere chi ha scritto cosa al pubblico della serata, no, la gente scrive e gli attori leggono. Quindi la cosa divertente è proprio questa, che tu hai sul cervellone iniziale o anche sul tabellone che sta in scena con gli attori, tu hai delle percentuali in senso reale, quindi questo è anche un discorso sociale, se vogliamo mettere. Quindi potete andare in collaborazione con l'Istat. Allora Gianluca, ricordiamo l'appuntamento, quindi fino a gennaio alla Cometa Off. Beh, giusto? Sì, anche questo è un tentativo a lunga tenitura, sì. Cosa che non si fa a Roma da tanti, da tanti anni. Per quanto riguarda uno spettacolo di prosa. Ma voi lo porterete, spero, anche in Italia, in tutta Italia. Ma io me lo auguro, perché guarda, la tendenza è molto positiva, il trend è veramente positivo, la gente sta arrivando in teatro, sente per il passaporto. Collabora, collabora. Allora, Teatro Cometa Off, giovedì, venerdì, sabato, ore 21, domeniche e festivi, ore 18, fino a gennaio, la prima volta, regia di Gianluca Ramazzotti. Grazie a tutti. Gianluca, guarda che se vengo a teatro ci devi raccontare la tua prima volta. Ciao! Ma guarda, non so, la mia è molto comica. Ciao. Veramente posso dire solo una cosa, che io ho avuto la prima volta con una ragazza che all'epoca, diciamo, è stata un po' una nave scuola, nel senso che nel gruppo sono stato l'ultimo ad averla la prima volta. Perché, va bene, va bene, non vogliamo sapere più particolari. No, carità, ciao magari, Gianluca! Ciao ciao! Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire. Sentiamo la bellissima voce di Claudio Baglioni, sentiamo anche gli uccellini umbri e ci ricordiamo ovviamente del nostro patrono, il patrono di tutta Italia, San Francesco d'Assisi. Ma ci saranno ancora gli uccellini in Umbria? Ci saranno ancora i boschi dove San Francesco andava a meditare, dove parlava con fratello Sole, sorella Luna, fratello Lupo, fratello Vento? E ce lo chiediamo perché in questi giorni è in atto una campagna di sensibilizzazione per il bosco di San Francesco d'Assisi, proprio della FAI. Allora noi abbiamo qui con noi quest'oggi a Cartellone Marco Magnifico, direttore culturale del FAI. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. Il Fondo Ambiente Italiano per la Terra di San Francesco, che cosa bisogna fare? Allora, guardi, io rispondo alla sua domanda. L'altro giorno ero proprio ad Assisi, sono entrato da questo portone che normalmente è chiuso e che si apre proprio davanti alla Basilica di San Francesco, dove comincia il bosco di San Francesco, e ho sentito gli uccellini, i tacchini, perché si vede che c'è un allevamento, i cani che abbaiavano, il rumore dei trattori. Cioè, al di là di questo muro, al di là del clamore di Assisi, c'è ancora questo bosco tappezzato di ciclamini, pieno di oliveti purtroppo abbandonati, di vigneti purtroppo abbandonati, con un meraviglioso piccolo monastero benedettino del 200 purtroppo in parte abbandonato. Ecco, con tutto questo questa meraviglia, che è uguale davvero a quando c'era San Francesco, più o meno, perché è intatta, anche se in abbandono, è stata donata al FAI qualche anno fa. E quindi abbiamo pensato di partire da qui, da Assisi, per la riscossa del paesaggio italiano, per chiedere agli italiani, dateci una mano a tutelare questo dono che noi italiani abbiamo avuto di avere il più bel paesaggio del mondo, dalle Alpi a Pantelleria, all'Etna, alle pianure, alle colline. Ma dove c'è un paesaggio di questa verità e di questa meraviglia? Però noi italiani lo trattiamo malissimo. Allora, è il momento di, come dire, di correre alla riscossa, e lo facciamo ad Assisi, per l'appunto. E quindi chiediamo agli italiani di darci una mano a restaurare questo bosco per poterlo riportare alla sua bellezza, rifare i muretti a secco, riportare gli olivi, rimettere le vigne, rimettere a posto tutti i sentieri, e poi, ma con l'aiuto di tutti, però. I tacchini li avevano importati, perché all'epoca di Francesco non c'erano, chiaramente. Lei lo sa, io non lo so, ma comunque sia, perché andavano bene. Andavano bene, no, perché è con la scoperta dell'America, però noi ricordiamo che il Fondo Ambiente Italiano, come lei ci dice, ci chiedete di inviare un SMS al 48548, questo SMS che è una donazione di un euro, che cosa simbolizza? Con questo SMS al 48548 si regalano 2 euro al FAI per aggiustare, per ripristinare la bellezza intatta di questo bosco. È una specie di scommessa che ci siamo detti, perché veramente ci siamo domandati, ma agli italiani interessa il paesaggio? Allora, se interessa, però chiediamo un gesto concreto, chiediamo un SMS al 48548. Io ci credo, io ci sono, io collaboro col FAI per il restauro di questo primo pezzo di paesaggio italiano. Se ce la faremo, andremo avanti per restaurare e rendere di tutti tanti altri pezzi di paesaggio italiano nella loro bellezza, nella loro autenticità, nella loro semplicità anche, ma meravigliosa. Io la ringrazio perché è veramente un'iniziativa da sostenere, e ricordiamo un SMS per la riscossa del paesaggio italiano, ma soprattutto per salvare il bosco di San Francesco d'Assisi. Grazie a Marco Magnifico, e grazie, ricordiamo a che fino al 25 ottobre si può donare attraverso questa SMS. E anche per questa puntata è tutto. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Un saluto e una buona giornata da Elisabetta Fiorito.